cazzo te ne vai? Stiamo cadendo, sono tre ammazzate. Fallo bene, fallo. Se no poi si alza stanotte che c'è sette con tutte le acciughe che ci ha mangiato. Dopo? E se come amico a Bartino ieri ti ho detto scientifica. Come messo la canna a pesca. Oh, sono tornato. Ehi, ehi, adesso mi avete fatto la ridicchia. Ma quindi Gianni ha avuto problemi col baracchino ieri notte, ieri, avanti ieri, boh, porca miseria. Ma lì mi correvava fortissimo qua, boh, Santiago 7 mi ha detto. Roba da matti. Lo profè, e tu cosa sei andato a fare? Mangia un po' piccone. No, birretta del faticante, Claudio. Birretta del faticante. Poi tutti a casa, dai. Allora vabbè, lì al corso. No, negativo, zona piazza università. Ah, ho capito. Ho capito. Già va bene. No, io la mattina già sto uscendo. Adesso domani, vabbè. Domani sono impegnato, porto il cane, mi alzo con calma, porto il cane. E dopo vado a Roberto a dare una mano. E poi vado a lavarmi con la macchina che fa di schifo, ma il schifo che più schifo non ve n'è, tutta cagata dai bezzogni. Ma la mia è la pioggia arancione. No, la mia era così, la pioggia, l'acqua sporca. Poi ha fatto quella passata d'acqua forte, pulita, e ha tolto tutta la sabbia che c'era. Ma adesso è tutta sporca dagli uccelli. E infatti mia figlia mi ha detto lì la parcheggia in via Roma, vicino agli alberi, e sicuramente è per quello. Tutta cagata dai bezzogni, ma è un nido di gabbiani. Io c'ho un albero che brucia la colla d'estate, che non avevo più tutta in colla. Stai attento a toglierla subito, perché altrimenti ti tocca il carrozziere. No, è una colla che ne esce, Claudio. Io quando la lavo la macchina mi metto sempre la cera. Mi faccio due passate di cera per il corteggio, poi non si attacca. Senti, basta che tu rimonti l'acqua, la butta fuori. Beh, certo, perché scivola. Sì, se no anch'io, io vado da Claudio, da Petrone, lì all'ex Fiat, via Catalocchino. Me la lava lui, capito? 7 euro, lava fuori, tutta, dentro è sempre pulita, vabbè, farò una aspirata gliela do. Ma fa di schifo, tutta cagata di mezz'ora. Antone, ma ha riaperto a Livia, caro Felice, la quit? No, apre il primo di giugno. Sta sistemando, apre il primo di giugno, invece Nico apre in pratica lunedì, anzi no, martedì mi ha detto Giuseppe, apre martedì cosa Nico? Tutta quella roba che c'era di quei ragazzi rimane lì, così com'era praticamente il bar, rimane? Esatto, sì, uguale, il circo rimane così com'era, tale uguale. Ha fatto un affare allora. Peccato quei ragazzi, potevano fare molto di più, ma io gliel'ho detto sia a uno che all'altro. Sia a Roberto che a Claudio gli ho detto, non si può fare una vita del genere, non puoi chiudere alle 3, alle 4 del mattino e alle 8 e mezza, alle 9 devi essere di nuovo qua, ma via vai, no. E infatti hai visto che non ce l'hanno fatta, non è fattibile una cosa del genere. Lo so, se tu in pratica lì, in quel locale lì, cambi tutto, cioè nel senso che fai i bagni diversi da come sono adesso, lì si fa di solito, dico io. Perché l'unica cosa è ristrutturare tutto, cioè comprare tutto dalla base al pavimento, quello che è, ristrutturare tutto e fatto più rigidi. Perché lì si riempie, te lo sto dicendo. Il locale è grande, grazie a Dio, e ci lavori veramente bene. E in più c'è anche la cucina, non solo l'altro. Ma musica fanno anche, musica lì. Sì, karaoke fanno ogni tanto. Quando non rompono le balle ai vicini, capito? Già è un bel locale, grandissimo, no? Già lo conosco, Antonè. Ehi, lo conosco una vita io quel locale, lo so. L'ha dimezzato Nico per questioni di risparmio, insomma, perché c'era troppo da fare, però già lavora quello, via voglia. Marcolino, sei uscito a vedere gli uccelli? i pipistrelli, aspetta che li sto contando, così mi raddormento, anziché le pecore conto i pipistrelli. Mamma mia, guarda, sono ancora... C'è questo divano che è tipo la poltrona di Andreotti, sta pigliando la mia forma, c'ha la... anatomica, c'ha la forma della mia coppa. Hai fatto un capolavoro qua, ma bello davvero adesso, c'ho la mia poltrona bella, amico, le sì, con le ruote, grande, da ufficio, quella in pelle, grande, grande, che balla anche mi. Puoi fare il dondolo. Poi dietro c'è un'altra scrivania col PC, tutte le altre cose, e c'è la sedia che avevo prima, c'è un abisso da questa, c'è un abisso da questa, sto così bene, veramente ordinato, tutto KDK. Va bene, va bene. Gavino, intanto Gavino è tu da Dudutu. Comunque c'è caldo anche qua, eh. Io sono in camicia solo e pantaloni ovviamente. E c'è caldo. Ma se sono nudo io sto scoppiando dal caldo, c'ho anche la finestra aperta. Ma lì ha contribuito la stufa. Il B30 ZG. Cazzo, una cosa allucinante, quella stava dissipando di calore, cazzo. Sono andato a spegnere, ma giù mai mi alluma la mano. Perché c'è un interruttore un bel grande, hai capito? E quindi era abbastanza caldo, ci sciughe, ma dissipando, stava aspirando là dentro l'aria calda e buttandola fuori. In 5 minuti è già mai alza 30 gradi questa stanza, una sauna. Eia, a parte gli scherzi, 30 anni fa ho avuto il B30 quando ero ragazzino, ma sai che il TPI che faceva? C'era l'analogico, non era digitale, come premevi la portante vedevi un schermo nero, una cosa terrificante. Poi mi pare l'avessi lasciato dato a Pomponi o a qualcun altro, era una cosa terrificante, un pasticcio, uno schifo, usciva sacro, un giocattolo. Antone, ci sei? Lascio Claudio e gli altri amici, va bene, ascolto. Ci sentiamo alle prossime, va bene, che sta andando via. Un saluto anche da Massimiliano. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao a tutti e due, alle prossime. Ciao Gabi, buonanotte, saluto a tutti lì, dai. Lì da Massimiliano, già ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte, vai Marco. Ciao Gabino, ciao Massimiliano, buonanotte e risentirci. Chi altri c'è? Perché hanno parlato in due. Gianni c'è. Forse io ho parlato con qualche culato, non mi sono reso conto. Allora ciao Massimiliano, c'è anche Gabino, buonanotte. KKKK. Ehi, ehi, ehi. No, ma hai quelli miei. Questo è perfetto Marco, c'ha delle protezioni allucinante, c'ha il dietro il connettore per le scariche elettrostatiche, c'ha tutto quello che serve, dai, ma è un lineare professionale. C'ho anche l'altro, quello dell'RM Italy, non c'è problema, quello a due ventole lo stesso, quello grande, c'ha gli amplificatori. Manca un amplificatore, no? Chi è che non li uso? Ma adesso metà sera mi è salito a testa a usare questo per fare due prove, ma ho visto che si difende molto bene. E che valvole monta? Quale tipo da meggiana? Un po' più piccole, le 872. Tipo boccione, dai. Minchia. C'è un grido che scalda. Sì, ne ha due. Ne ha due. E sono abbastanza grossi, non quanto il boccione, ma quanto il coso della bottiglia zipper, che fungono, sono da 500 watt l'una. Ma 872 o 8720? 872, sono quelle della... Quale monta l'FL 2100-7100 della Yaesh? Le stavo cercando, ma valvola di scarico, mi dà altre valvole che non c'è nelle macchine, no, del motore, ma non me le dà quelle valvole lì. Vabbè, dai. Che non stia sbagliando io, 872 mi ricordo io. o 752, boh, una cosa del genere. Non me lo ricordo, Marco, forse sto dicendo cazzate. Guarda comunque quali sono, se ci sono. No, ma tanto ne conosco poco di valvole, quindi dai, non è certo nemmeno, era curiosità di vedere. Beh, signori, io tanto mi devo fare qualcosa per mangiare, per cenare, perché io ovviamente non ho cenato. Saluto Gianni, Pomponio, non so se ci sia Fabio ancora, Fabio, non mi viene il nome, sono dormito. E Claudio, dai, ci sentiamo domani quando capita. Viene voglia di andare al mare con questo caldo, ma in spiaggia si può andare, niente sapete. Ho sentito che forse avevano liberato le spiaggie, diciamo, dal divieto. No, liberato no, ci sono i controlli, devi stare a distanza, gli ombrelloni devono avere anche nelle spiagge libere, gli ombrelloni non devono essere vicini, capito? Liberate del tutto no, si può andare ma con molta sempre restrizione. Se tu immagini che quando io andavo alle saline non venivo manco a mettere uno spillo, adesso ci saranno i limiti, perché ci saranno le guardie, ci sarà gli steward, non lo so come si organizzano per non far entrare dalla sbarra lì delle saline tanta gente. Una volta che vedono che la spiaggia è completa, non ti fate entrare, sarà da tutte le parti così, una rottura di balle, capito? Vabbè, comunque uscirò begli alloggi, per quest'anno è andata così, vuol dire il prossimo anno, se sono vivo, sarà meglio, con la speranza che il coronavirus non mi ammazzi prima. Oh, se non ci ha ammazzato adesso, il virus farlocco. A proposito, ciao Gianni, non mi ricordo se ha chiuso già il profeta oppure no. Se si ha l'ascolto, dai, ritieniti salutato. Io vi saluto e vado a mangiare qualcosa, dai. Buonanotte, buon tutto. Vai, allo, Gianni. Sempre magnetici. Io sono ruminante, ogni tanto devo assumere. Buonanotte a tutti qua. Ciao Tino, ciao Claudio, ciao tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao, le prossime. Avanti, lo profe. Ciao, Kawasaki. Ciao a tutti, ciao. L'avevo scambiato per Tino. Anche io, ciao Tino. Ciao, ciao. Dai, entra al volo. Ciao Marcolin. Dai, c'ho una mano al microfono e l'altra mi sto grattando, dai. Comunque, salutoni a tutti i nottamboli. E niente, dai, grazie per il piccolo consiglio. Ci sentiamo più presto, dai. Buonanotte, salve a corte. Ciao, ciao. No, ma io ti seguo, ti sto seguendo. Ciao Gianni, doppio, ciao Lubaffetta, ciao anche Antonino, Antonello, Marco, poi chi c'è, non so, non me ne ricordo più, dai. Anch'io chiudo, vado a vedermi un po' di TV, mi aspetto che rientri mia figlia dal Correlle. Ciao a tutti, buonanotte, io due prove me ne sono fatte, Lubaffetta. Mi aspetto adesso, infatti adesso c'è più fresco. Poi faceva troppo caldo, perché avevo il kilowatt acceso, la massa viene in varia, mi ha fatto venire caldo, allucinante. Dai, ciao a tutti, alle prossime, a domani. Ciao Claudio, buon pomeriggio, ciao Roberto. Pomponio, sì. All'ascolto lì, poi ho fatto lì. No, acceso adesso perché mi stavo guardando un bel film di Italia 1, mi fate scienza. Ah, stavo guardando anch'io, poi sono entrato qua. No, invece avevo l'antenna girata verso quella zona e un kilowatt sotto. Cazzo, mi hanno mandato dei messaggi a vedere se ero in giro in macchina. Con chilo, pronto io tempo dietro. Eravamo fuori tutte le parti, mi hanno messo. Quindi mi hanno mandato un messaggio anche al Ghero. 9.40 ero. No, ma lì nella zona di Gianni ero fondo scala incollato da Galvino. Volevo sapere se eri in ascolto, se avevi visto il segnale, giusto così. No, attacco mai, stanotte l'ho provato, ma fa troppo caldo ed estate, non si può usare sta cosa. Lo rimettiamo a posto, tanto è quello che uso in HF, non lo uso mai 27. Va bene signori, dai Antonè, riprendi la palla, mi fate due chiacchiere con Antonino e io vado a vedermi un po' di TV. Ciao! Dico per usare la guanta, mettilo in sesto perché tra poco te la faccio come l'altra volta, con l'effettice 2,50 e mi ha attaccato. E che stavamo bravo con Walter, quindi ti conviene, mettilo fuori quell'aggeggio, ti conviene, lo dico io. Perché te lo do come prima, tale uguale, a fatti schiattare. Ti ho detto che sei piccolino, devi crescere ancora, devi crescere per superare a me tu. Ma non sai quanto devi crescere. Ui, non ne hai idea tu, non ne uso neanche un lineare con te, non ne spreco corrente. Lavoro solo con la direttiva, come ti muovi ti fulmino. Oh, dai, già lo sai, aiuta, già lo sai come sono fatto io. Non mi sfidare, già lo sai. Non c'è bisogno di fare quello lì, basta un chemo, basta, un chemo 280. Ti gioco con lo free, qualcosa, con lo shifting e ti faccio gloco. Per avere i batti che vuoi, ma non riesci a parlare con nessuno, te lo dico io, e tu lo sai. Lo sai il gioco che facevo io con quello di Alghero, quindi. Lo sai come facevo il gioco quello di Alghero. Allora poteva la vita, arrivava a casa sulla scala in tutti i posti, dopodiché morto era, morto. Ma con quel comincio di casa ci va a parlare, se ti ricordi. Metto a disturbare, disturbo tutto Sasso e si mette a giocare, ma tu con me devi fare le prove di trasmissione, poi vediamo se arrivi dove arrivo io. Vai a dormire Antonè che c'è il sonno, vai, Toni, dalli, falle una camomilla che è troppo agitato. No, se mi sposto non ti do, se ti do, se sono venuto come niente, già lo sai anche tu, con un chemo, basta un chemo, già lo sai anche tu. Come facciamo con quelli di Alghero, quindi Claudio, già te lo ricordi anche tu, non è che lo succede per scherzo, perché è vero. Secondo te quelli di Alghero, perché cazzo parlavo con uno a fianco all'altro, se ti ricordi bene? Te lo ricordi, sì? Facevamo il Berlino e non riuscivamo a volare uno con l'altro. Basta giocare con lo shifting, ecco, non c'è un 680. Se avessi avuto un 680 ti faccio vedere con l'ideale l'effetto che fa, perché è allucinante la cosa del genere, ma sono spostato per la prima frequenza. Io me lo ricordo che giocavi così tu, io me lo ricordo. Ma adesso tanto c'è più nessuno, non c'è più voglia di giocare, no? Vedi, quando voglio giocare io cosa faccio? Giro la direttiva, attacco il bambino, c'è poco a giocare, non c'è Cristo, c'è poco a giocare. Vabbè, fammi andare, vai, tu attaccati quell'affare là, poi ci divertiamo come facevamo prima. Avanti Tony, buonanotte a tutti. Ciao Clan, buonanotte. Chi c'è mania di Ravuzza? Mamma mia. Un pugno. Ehi, ciao Tony, buonasera, hai sentito? No, papà, facevamo così con Claudio, la verità. Pensavamo durare Alghero, avevo usato la tattica io, che era l'unico che usavo quella tattica. Non c'era verso, bastava al limite mettere, guarda, un clicco molto, guarda. Pensavamo la persona, il microfono normale attaccato a un alimentatore che tira la ternata. Non c'era Cristo che teneva, no? Non riusciva a parlare, quando riusciva a parlare con nessuno si dico cosa. Claudia se lo ricorda. Sono l'unica persona che ha fatto gli esperimenti del genere. Non c'era, anche quello arrivava 9.40, cosa del genere, eh? Io arrivavo, sentivo 5-6, la pernata se lo mangiava, non riuscivo a sentire un tubo. Che recensione la metteva Tony, capito come giocava? Quando arrivava nei segnali lui giocava con VFO, no? In banda laterale faceva cazzo, un rumore. rumore che ti faceva sordo. Un tipo come ai vecchi tempi, rosa verde con cicalino, la portante d'oro col toccai 50-24. Puzzi rosa, mastrami, mamma mia che rumoraccio, cazzo. Ma te la metti gra? Minchia, se me lo ricordo, ce l'avevo anch'io il toccai, c'era quel cazzo di cicalino. Mettevi con la portante e ti faceva sordo, cazzo, sordo ti faceva. No, ma lui adottava il sistema dello spostamento di frequenza con lo shift, no, in banda laterale. E quindi quando spostavi il VFO con la KF faceva io, cazzo nel rumore, mamma mia. Adesso siamo ancora più vicini, non abbiamo mai avuto problemi, figurati, anzi, ci siamo sempre divertiti, capito? No, nessun problema, ma io mai con nessuno da quando sono a Sassari, no, non mi interessa. È che ogni tanto c'è sempre qualcuno che sgarra, cerchiamo di perdonarlo, ma si va avanti. Avete parlato in due. Antone, sei passato molto male, senti io più a Claudio. Io sono Luciumi, adesso ho staccato tutto, sono 10 watt. Ma perché non mi sono accorto che avevo solo un lato, sono liscio, quindi. Ehi, ho detto siamo lisci tutti e due, non c'è problema. Stavo dicendo a Torino che noi due non ne abbiamo mai avuto problemi, non abbiamo mai bisticciato per il baracchino. Io sono dall'87 qua a Sassari, non ne abbiamo mai avuto problemi. Ma neanche io con te, Clara. No, ma neanche tu con me, ma neanche negli anni passati, eravamo due rompicoglioni, ma ci siamo sempre difesi tranquillamente, senza problema. E oggi come oggi è cambiato tutto, capito Tonino? Non c'è più nessuno. Ha rotto un po' le balle questo sistema della quarantena, che è iniziato a entrare mondezza, capito? E non per parlare, perché sei in quarantena, attaccati il baracchino, ti fai due chiacchiere, saluti i vecchi amici, no. Entravano a disturbare, a mettere portante qui e là, capito? Non va bene così. Io ho 6 anni più di te, là, e quindi, come di notte mi hanno messo la portante a K2, ma non me ne frega niente, ho detto tutto, ho fatto con di te, ho salutato, ho detto tanto, era poi sì o sì, e poi tra l'altro, dai, non si possono fare più con sì o sì, con certe persone, quindi ho capito che sono persone, a carità, no, no. Io faccio di quella qui, spengo, mi guardo la televisione e poi c'è solo me l'argomento, oh, basta, non me ne posso più negativo, ui, ma se uno viene a rompermi del male in casa, allora la cosa giamba, ma il baracchino non mi frega più niente. Quanti anni hai tu, Tony? Io a settembre compio 66 anni. Io 61. Però non le dimostro, sono sempre lo stesso, grazie a Dio. Se no io sono giovanissimo di spirito e anche fisicamente, grazie a Dio, tutto a posto, però l'età c'è e non si può giocare più come prima, dai. Bisogna fare le persone grandi, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, va bene così. Va bene, dai, Tony, riprenditi il microfono. E ci sentiamo domani, dai. Ciao Tonino, ciao Antonello e chiunque sia in ascolto sul 10. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao, qua. Non lo abbascio qui. Ciao, qua. Ci sentiamo a conferenza. Avanti, Pupuzzi. Non sei uscito, Tony, eh? Sì, sono del fisco e basta, del PA. No, non va bene, Tony. Sistema tutto perché sta uscendo strano. Ecco, ho messo me che non fare. Allora, quando metto le cuffie non fa innesco giustamente e esce perfetto. Come sono delle cuffie in legno e questo è buono, è un casino. Cosa ne faccio? Mai che del microfono. anche normale quando aumento, vedi? Adesso va bene. Adesso trovo il sistema, guarda, vedi? Ecco. Adesso non fischia più. Adesso va bene, visto? Cosa? Adesso va bene. Perché stai facendo la potenza, aspetta. Adesso va bene comunque. Ho abbassato quel potenziometro che c'ho dietro. Se quello fa mi innesta per far più casino, per carità. È logico, quello è l'eco. L'eco non l'eco. Io l'eco solo una cosa, la patata è buffa. Anch'io sono aperto. Mi che c'ho i bambini in ascolto. Non ho bambini da sabbia a casa, io sono. C'ho un mio nipote che ha 20 anni, quindi. Si muore da 50 e passa. Dimmi una cosa, è quello bidoncino che ci ha fatto. Bidoncino se mi faccio un pezzo di baracchino, almeno. Mi faccio un dipolo io adesso, domani lo vuole male così a me la venta baracchino. Ha sento che non vuole più entrare, mi ha detto. Sì, che già vuole entrare. E io te dico, dice una cosa, poi dice un'altra. E ha preso questo capo di cosa, cazzo. Non hai visto quello che ha scritto su Facebook? È una cosa allucinante, cazzo. E ha preso questa ragazza che gli chiede con soldi. Se no siete, ma cocco, dai, caraggio, ti chiama, giubbetto. Gli ho detto un sacco di volte, poi un'altra l'ha chiamato. Con io ho seguito il tuo consiglio. Era ora. Ma è donna se pensica. Ma detto là che se rientra in frequenza, donne non ce ne sono. Beh certo, è quello logico, ma già lo sai anche tu. Comunque sia, ieri ha messo una cosa su Facebook, non lo so, non ho risposto neanche la verità, perché non è possibile. Tu vai a scrivere una cosa del genere su Facebook, anche da basta, non è che devi andare, cioè, segnalare su Facebook questa tipa qui che ti chiede i soldi. Allora, questo non mi frega proprio niente la verità, il discorso è quello. Tanto, ne butti fuori una, ne trovi un'altra, sono tutte così queste periodo qua. C'è con una virus, quindi vogliono soldi e basta, tutte. Allora, tutte la vogliono così. Basta che l'ho detto io. Cosa costa la furia? Quella? Ha bisogno di a Napoli. Ti dà nome e cognome, o cognome falso e insomma. C'ho la nonna che mi sente male, anche una con me aveva parlato una cosa del genere. E da giù, fa la cosa, non è di chimi. Ma cosa ho suggito io? Ma io anch'io che non è a in Costa Lavoglietto, è a Napoli quella. Quella vuole solo e basta. Ma per chiudere non c'è problema. Quante cose? La chiudi, ma fa il culo. Quanto c'è solito la ragazza che ha 100 soldi con detto? Allora preso il 100 soldi coccato. Fatti la passeggiata, detto. Ti fai un giro, conosci una bella ragazza magari a un bar, cosa del genere? E parli con lei, eccetera, eccetera. Oppure via Roma, diciamo, perché se va bene una bella ragazza deve per forza conoscere via Roma. In che bar ci sono? Perché lì sono tutte ragazze che hanno soldi, che lavorano praticamente in negozio. Io ho detto, si presenti, va a far culo, a un certo punto guarda, io sono disoccupato, mi sei simpatico con la gente, voglio frequentare, basta, tutto lì. Poi ci dirò a lei, no, a un certo punto se sì o se no. Non è tipo comunque. Ma 54 anni va bene, guardate che buona campo che è. Io meglio anch'io, quindi mi devo fare. Io per questo ho preso a fare me a un certo punto. Vabbè. Io devo modificare queste cuffie, Antonè. Perché ho il jack da piccolo a grande. Però, giustamente qui sono serio, però chi ne è nuovo. Ho tagliato il filo e cerco di collegarlo, è stato serio stesso, ma ci sono due rischi, una per parlare. Allora, anche io ho casino. Se non c'è problema. Allora, le qui c'è il serio, è il baracchino in mora, io c'ho un check che entra all'ingresso grande e c'è l'ingresso piccolino a 2 metri cubi, però c'è tutto un orecchio. Lo so, ma lui fa la storia a mora, se vuoi ascoltare, se no c'è fu tutto, il discorso è quello. E video se bisogna fare, sai dare il capo e unire i fili più quando sono il serio. Esatto. Esatto, per portanti, andate sul canale, non c'è nessuno, e trova proprio lui, domani non cambia la faccia. Appunto per quello. Allora, lasciare con la un po' il tigetto, vediamo se funziona, è per minuti. Ehi, matami, buon punti. Io sono qua, aspettavo con la del capo, minuti, per attaccare il tigetto. Ma non c'è bisogno di attaccare il cicchetto, già ti sentiamo. Attacca il piglione. E bisogna fare purtroppo è così. Siamo fatti cadere con il statore di luci e poi ci può lineare. Per fare la fine di capire due, in pratica, che ha bruciato da chi in lineare. Ma comunque se trovo una sensazione in piscia me la prendo. Però devo riempire il suo mobile qua. Lei, mi sento cinese, lei pigli, quanto ne vuoi state le fisse? Sito cinese. Io non le do numero di carte di credito. Cosa vuol dire? A un certo punto se ne ruba. La vendo io. Vuoi mio? Se vuoi mio, mi dai 500 euro, come l'ho pagato io. E c'è la parito qua di banda. Come l'ho pagato io, tale uguale. E è stato l'altro. Antonio, per spendere 500 euro. Prendo la lame, me ne vado a Genova, prendo l'aereo, me ne vado a Genova, al mercatino dei donatori e me lo piglio un attimino, me ne fanno anche di meno. Non c'è più, ho chiesto a Stefano, ieri l'ho chiesto, quindi a Genova la fila non c'è più. E la data a parte, che telefono a Stefano e ti fa la fila e si va, qual è il problema? Ma se non basta pigliare al limite 5 elettronica. Dall'edicola e se non c'è la fiera. Si va da Milano e poi dalla Marcucci. Esatto, sei bravo. Bene. E troviamo quello che ci interessa. Ma per adesso non si può uscire dalla nostra regione e quindi rimaniamo qua. Ma lo c'è il passaporto di che c'è la picchiola grossa, sarda. La può presentare capo agli altri, dice io ho passaporto, io ho questo problema, questa malattia, è grosso e tipo sta 6 giorni che devo fare, a un certo punto, c'è la fanno il sabato sera. Ma adesso si può andare a Lombardia, staccano la picchia di roba. Lascia per la Lombardia, non è lì, è un'altra parte con la fiera, grazie a Dio. Per il momento non si può uscire da un'altra regione. Tutta la Sardegna possiamo girarla, ma a uscire fuori non vogliono. Vabbè, vedremo. Come si allaga la cosa là? Qual è il problema? Ma però che c'è fuochi a Puglioni, che cazzo, gli extramonitori devono essere vicino che parò, Appunto per quello. Lascia attaccato, come mi ascolti, bene o male? Un po' sciattolo. Prova che guarda il segnale. Aspetta, che regola, 2 minuti. Aspetta, l'ultimo che devo diminuire la potenza. 120 watt, ricorda che c'è stato una attaccata all'altra, la verità, il paracchino, il lineare, una attaccata all'altra in sala. E quindi se tocco il dito, rischia. Adesso c'è un dito solamente nella parte del microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proprio. Sì, si riesce però, poi fischia così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, adesso. Va meglio. Ora, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Però c'è troppo apparato acceso, se si pensa. È bello, appena acceso, quindi. Mi senti, sentiamo. Si chiama Ettore. Io sono solo Emi, figurati. Devi cambiare a letto, già hai visto la casa, quindi figurati tu, il microfono che ho io, è allucinante, è una cosa molto allucinante davvero, tutto si sente. Comunque anche quello che ho io fa parte cosa mai. Niente, mi da fare la modifica, perché poi non mi da fastidio, se non ricco, come ho fatto il primo, ha fatto un mezzo casino qua. Oh, vabbè. Lo so. Buonasera, ti lascio adesso. 40 gradi. Siamo dal limite della reattina, senti, se non stai facendo un tubo, ci stiamo alla reattina. Ok, fai, io sono già letto. Dopo tutto mi guardo un po' di TV e poi sabato di mattina, 4 e mezzo che io in terra, è qui. Vabbè, dai, ci sentiamo a Tony. Forse se vuoi fare qua, dopo così, a domani. Ciao, Tony. Ciao domani, ciao, buonanotte. Ciao, ciao.